Beh, allora intanto volevo dire il progetto dell'alta velocità Fiorentina con la nuova stazione a Foste, e credo che se lo facessero creerebbe problemi ai turisti che non lo so qual è il problema. Mentre ecco, è vero questo, che l'aeroporto di Firenze, indipendentemente da tutti i programmi ambientali a cui ha accennato Milena, secondo me è proprio da non volere, perché è legata a un modello di turismo elitario e mordifugio. Questo è quello che c'è dietro il progetto d'aeroporto per il Dio. Ed è un turismo, è vero, già detto, è quello che è il nostro nemico. Io piuttosto una grande opera da fare sarebbe, secondo me, anche questo lo chiedo però agli urbanisti, una diffusione, diciamo così, del turismo all'intorno di Firenze. Sì, Firenze è turisticato soltanto al centro, ma perché, mi domando io da tanto tempo, perché non mandare una parte delle opere d'arte che sono nel centro storico nella periferia, per esempio della Piana, ci sono delle ville molto belle che potrebbero diventare sede museale. Perché concentrare tutti i turisti in questa maniera e non rendere la cosa anche più democratica in questa maniera?